Siamo con Nicola Maccanico di Vision Distribution per parlare del film MacDoo My Love, canto 1 di Abdellatif Kechiche, in uscita in sala il 24 maggio scorso. Nicola, ben trovato. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, bene, grazie. Senti, ti chiedo subito la prima settimana, com'è andata? Ma sai, MacDoo My Love è un meraviglioso film di un grande maestro ed è un film di qualità. Quindi il film è partito, diciamo, con dei buoni incassi nei locali di qualità, ha bisogno di tempo per sviluppare il passaparola che questo tipo di prodotto pone alle basi del suo successo, ma siamo moderatamente soddisfatti. Che Kechiche ha saputo essere anche più largo, per esempio con La vita di Adele, con il quale ha avuto un riconoscimento importante a Cannes, ma noi sapevamo che con MacDoo avremmo avuto bisogno di tempo e devo dire i primi segnali vanno nella giusta direzione. Come lo racconteresti in breve? È un film di straordinario interesse perché, come sanno fare solo i grandi maestri, riesce a cogliere nel particolare un valore generale. E più tratta temi che sembrano avvenimenti, accadimenti piccoli, e più in realtà attraverso quelli fotografa un momento storico. Nello specifico, il film parla dell'estate del 1994 e mette insieme giovani di tutte le religioni, di tutte le razze, che stanno tra di loro, passano del tempo libero tra di loro ed interagiscono senza nessuna delle preoccupazioni o delle divisioni che purtroppo il nuovo secolo ha portato nel nostro mondo, a causa del terrorismo, delle guerre di religione e di tutto quello che ne è scaturito. Vedere questi mondi così distanti che, uniti da una meravigliosa età e dalla vacanza, interagiscono senza problemi, è un messaggio globale, secondo me, di grande valore e ci ricorda, e ricorderà a tutti gli spettatori del film, come in qualche maniera, a causa delle violenze, degli integralismi e di una miopia diffusa, abbiamo perso qualcosa che dovremmo cercare di riconquistare, cioè la fiducia reciproca tra mondi diversi, religioni diverse ed opinioni diverse. Che tu sappia come mai ha questa ambientazione temporale così puntuale nel 94? C'è una scelta, credo, non è un anno, è però chiaramente in quella fase storica nella quale la caduta del muro di Berlino, in assoluto l'evoluzione tecnologica e un mondo che sembrava essere più piccolo, dava la sensazione a tutti noi di avere in mano un futuro senza problemi, un futuro senza guerre, un futuro senza conflitti, un futuro all'interno del quale i giovani potevano trovare appunto serenamente grande, grande ottimismo. E il mondo è molto cambiato. Credo quindi che la scelta sia proprio quella di non mettere questo momento troppo a ridosso degli eventi dell'inizio del secolo che in maniera così radicale hanno cambiato i rapporti tra questi mondi, e in Francia se ne è sentito chiaramente di più, proprio per la natura multietnica del territorio e di quel popolo. Al tempo stesso, però, appunto, il film è posizionato in un momento sufficientemente successivo rispetto alla caduta del muro, e quindi, diciamo, secondo me, il maestro Kechiche si è posizionato in mezzo, diciamo, essendo equidistante tra l'elemento scatenante della grande fiducia nel futuro, che era la fine della guerra fredda, in qualche maniera la caduta di tutta una serie di barriere culturali, e invece gli eventi successivi che avrebbero ricreato delle inevitabili rigidità tra diverse culture. Kechiche è uno dei pochi cineasti europei a trovare una sua continuità nelle nostre sale. Ma guarda, la merita, è chiaro che c'è un tema macroscopico, più che su chi riesce a passare in sala, su quanto si riesce a restare in sala, perché i dati trasferiscono il senso di un cinema, un mondo del cinema, di una sala che nel suo valore complessivo ha delle contrazioni, ma ha delle contrazioni limitate, al contrario aumentano continuamente il numero dei film e degli eventi che vogliono passare dalla sala. Questo è un dato implica una minor durata del singolo progetto in sala e implica soprattutto che ci sono tutta una serie di film, appunto, che avrebbero bisogno di maggior tempo per poter essere conosciuti ed apprezzati, che invece escono dalla sala in maniera prematura. Sì, quindi sì. Direi, io sono convinto che Kechiche e non solo continueranno a trovare una posizione in sala, un'opportunità, però noi ci dobbiamo interrogare su come riusciamo a valorizzare quello che finisce in sala e merita di essere valorizzato. Sì. Perché altrimenti, mettiamolo in questi termini, un maestro come Kechiche, un grande film come Mektub e film che magari meritano molto meno, hanno la stessa possibilità di incontrare un pubblico e questo non va a vantaggio dell'industria cinematografica nel suo complesso. Non è semplice perché certe cose non si possono regolare ex ante, però un tema del numero di film che entrano in sala e della loro reale possibilità di trovare un pubblico è un tema centrale che chi si occupa di cinema nell'industria moderna non può non affrontare. Ci racconti anche brevemente l'esperienza Vision Distribution? Ah, noi siamo molto molto soddisfatti, siamo alla fine della nostra prima stagione, se vogliamo considerare equiparare la stagione cinematografica all'anno scolastico, e abbiamo portato a casa importanti risultati, intanto perché siamo riusciti a portare in sala 11 film, di cui 5 opere prime, 2 opere seconde, 2 opere di registi affermati e 2 film di grande qualità internazionale come Happy Prince e Mektub. Abbiamo portato in sala il film che ha avuto il più grande successo durante le feste, comunque antitangenziale. Siamo riusciti a portare film provocatori che comunque hanno conquistato un pubblico largo come Sono Tornato. Quindi credo che il nostro impegno di lavorare sul cinema italiano, di cercare di trovare forme innovative per promuovere i film, ma anche il coraggio di investire su storie non banali, è qualcosa che stiamo realizzando. In più credo che stia anche pagando. È chiaro che c'è il tema generale di come si inserisce la sala all'interno di un mondo che da un punto di vista dell'audiovisivo offre molte molte opportunità di sfruttamento. Mm-hmm. Di come facciamo a fare in modo che la sala sia un luogo per i grandi film, e questo è un pochino automatico, ma anche per del prodotto diverso. E noi di Vision, con la qualità dei nostri film, cercheremo di partecipare a questo fondamentale dibattito per il futuro del cinema. Nicola, in chiusura ci lasci i riferimenti web per sapere maggiori informazioni su Mektub? Si può andare sul sito di Vision, che è visiondistribution.it, dove potrete trovare tutte le informazioni del caso. Benissimo. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Crepi lupo, a presto. Ciao, ciao, grazie.